A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori commedi, perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte alla incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. Siamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori commedi, perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte alla incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te, insieme a te.